America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, sono davanti a St. Patrick. Ci sono ancora questa mattina le telecamere, i camion per la trasmissione in diretta via satellite. Beh, Dolan era uno dei candidati, un po' di delusione forse a New York, ma devo dire anche adesso c'è così grande folla, una gran quantità di persone che entrano e escono dalla chiesa per così rendere omaggio, una riflessione, una preghiera per il nuovo Papa. Ho con me, appena uscito da St. Patrick's, Douglas Guevara. Hello, hello Mr. Guevara. So what do you think of the new Pope, an Argentinian? Penso che sia un passo avanti importante. È una buona cosa che un latinoamericano sia diventato Papa. Poi Francesco è un nome pieno di significato. Penso e spero che sarà capace di ricondurci agli insegnamenti originari di Gesù Cristo. Perché vi faccio anche questa trasmissione dalla strada? Perché vorrei proporvi un reportage che ho fatto dalle strade di New York al seguito di un gruppo di persone che si è dedicato a fare il censimento dei più poveri, cioè dei barboni, di quelli che in una notte d'inverno non riescono ad arrivare o perché non hanno fatto in tempo o per scelta a uno dei tanti rifugi che ci sono in città e passano la notte alla diaccio, al freddo. Ecco, direi che siamo in tema, è quello che ha detto ieri il presidente Barack Obama quando ha inviato un saluto e gli auguri a sua santità Papa Francesco I, nel momento, dice, in cui ascende la cattedra di San Pietro e inizia il suo papato. E sottolinea Obama che Papa Francesco I, in quanto difensore dei poveri, dei più vulnerabili fra tutti noi, porta avanti un messaggio di amore e compassione che ha ispirato il mondo per oltre 2000 anni, ossia che vediamo il volto di Dio in ognuno di noi. Ebbene, devo dire che il volto di Dio l'ho visto anche in alcuni di questi barboni che erano sperduti per strada al freddo nella città di New York, una New York che non si vede troppo spesso. Chiedo alla regia di far partire la registrazione del mio reportage. America 24. Sto facendo un pattugliamento per fare un censimento dei barboni che d'inverno restano comunque per strada a New York, rifiutano di andare nei rifugi, e dunque questa giornata è dedicata in tutta la città a un censimento, pensate, quartiere per quartiere, isolato per isolato, di quanti barboni sono per strada. Ci sono 3.000 persone circa impegnate in questa operazione che è cominciata qua, alla Public School 14, sulla undicesima strada fra la Sesta e la Settima Avenue. La cosa più affascinante, devo dire, un percorso notturno a piedi, di notte, fra mezzanotte e le 4 del mattino a New York, non mi era capitato di farlo, e si vede la città in movimento. Ecco, in questo momento, per esempio, stanno passando davanti a me degli sguatteri di un ristorante che stanno svuotando le loro pattumiere. Provo a parlarli. Hi, hi, can I ask you something? Sì. Habla español? Sì. Habla español. De quanto tempo sta qui all'America? Dos años y pico. Dos años y pico. Ok, il lavoro terminò, ora il ristorante trabajó, terminò? Sì. E todo se va a casa? Sì. Muy bien, gracias mucho. Dopo una prima ispezione per le strade di New York sono tornato alla PS41, che è la scuola elementare dove c'è stato l'incontro iniziale e dove piano piano i gruppi ritornano. Io, come Brian Hartig del Dipartimento dei Homeless qui a New York. Hi Brian. Hi, how are you doing? Very well. So how is it organized? Well, everything that you saw tonight actually began about 6 months previous. Ecco, Brian mi dice che il lavoro di preparazione è durato sei mesi per cercare di organizzare questa nottata, e dalla organizzazione centrale sono partiti una serie di informazioni, di messaggi su come iscriversi, e una gran quantità di fondazioni hanno partecipato a questa missione, quindi fondazioni locali. C'erano circa 150-160 persone qui in questa location che è la PS41, appunto la Public School 41, una scuola elementare. E how big is your mission here? I couldn't tell you an exact size, but ecco, Brian mi dice che c'è una porzione di Manhattan che arriva fino alla 42esima nella parte west lungo il fiume Hudson e poi scende come una specie di L che si prolunga lungo Houston e arriva fino all'East River, quindi devo dire un pezzo abbastanza importante di Manhattan. What will you do with this information, Brian, once you have them? Well, once the information is collected, they l'obiettivo della missione di questa notte è quello di capire dove si concentrano gli homeless, i barboni, i vagabondi, e dunque cercare di capire se è possibile intervenire in modo organico per evitare che restino per strada rispetto alle medie che si sono registrate per esempio l'anno scorso. La situazione in generale è migliorata, ma per darvi un'idea di quella che era la situazione, l'anno scorso sono stati trovati 3.262 vagabondi in una notte come questa, ci sono 48.264 homeless, vagabondi che sono invece nei rifugi a New York. Questi rifugi sono ben 250 nella città, e New York è l'unica città in tutti gli Stati Uniti che dà la possibilità ai vagabondi di poter essere ospitati gratuitamente in dei rifugi. Ci sono tre o quattro categorie, ci sono quelli che così sono, diciamo, i normali vagabondi per strada, ci sono poi le famiglie con i bambini, ci sono poi i cosiddetti single adults, sono dei uomini o donne che fanno parte di un programma, cioè che vanno dentro gli shelter, dentro i rifugi, e poi escono durante il giorno e poi rientrano, quindi non stanno per strada ma stanno permanentemente dentro i rifugi. E ci sono infine le cosiddette famiglie adulte, dove ci sono magari un genitore, una madre, un padre con un figlio però al di sopra dei 18 anni. Ecco, vi dicevo, è l'unica città nella nazione che ha un programma di questo genere, New York, e il costo alla città è di $1 miliardo, c'è un intero dipartimento, un'intera divisione, c'è un assessore che si occupa esclusivamente dell'aiuto e della gestione dei vagabondi. Bene, sono sempre alla PS41 dove le squadre cominciano a rientrare e ho con me Molly Breithauer, che è di Robin Hood, una delle più importanti fondazioni filantropiche qui a New York. Hi, Molly. Hi, how are you? Very well. Now, Molly, tell us about Robin Hood. So, on a daily basis, Robin Hood is the largest private poverty fighter in New York City. Ecco, allora Molly mi racconta che Robin Hood è la più importante fondazione filantropica per lotta contro la povertà a New York. Pensate che ha raccolto l'anno scorso $235 milioni e in una sola serata ha raccolto $46 milioni, che è stata la serata, diciamo, del benefit annuale della fondazione. I membri del board, i fondatori, è relativamente recente, Robin Hood non è stata fondata tanti anni fa, non è una delle fondazioni storiche, contribuiscono il costo completo della gestione e tutto il resto, tutto quello che viene raccolto va direttamente a organizzazione. Mi dice Molly che ci sono circa 200 organizzazioni che si occupano di combattere la povertà a New York che ricevono i loro fondi, e ci sono dei programmi di collaborazione diretta con il Dipartimento del Homeless qui a New York. Bene, nel frattempo è tornata la squadra 19, una delle squadre che ho incontrato per strada, e ho il capo squadra, Debbie Fife, che è qui con noi. Debbie, hi. So, how did it go? What happened? How did it end? We had a wonderful evening. We got to speak with four homeless men who told us their stories. Ecco, Debbie dice che la squadra 19 ha alla fine trovato quattro homeless, quattro vagabondi durante il percorso, due nella metropolitana, uno nell'ingresso della metropolitana e l'altro nei gradini di una chiesa sulla Settima Avenue. E questi quattro vagabondi avevano più o meno tutti 50 anni e nessuno di loro voleva entrare nei rifugi, però mi ha detto erano gradevoli, parlavano, chiacchieravano. Uno di loro aveva deciso di stare in piedi tutta la notte per poter poi trovare un rifugio dove addormentarsi durante il giorno. Ecco, questi quattro che sono stati recuperati dalla squadra andranno poi a formare questo grande mosaico di questa notte, di questa lunga notte newyorkese, in cui si sarà compiuto il censimento di quante persone in un particolare momento sono state in una notte d'inverno fuori all'aperto a dormire. Bene, torno a St. Patrick. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ve devo dire, pensando alla missione del nuovo Papa e all'altra New York, quella che vi ho raccontato, che vi ho descritto nel mio reportage, dedico la canzone a loro e a Papa Francesco I, alla sua nuova missione, e vi propongo Tom Waits, Underground. Well, Per ora è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.